Sentite, d'ora in avanti niente più Guns N' Roses e Soup Dragons, capito? Vi voglio a dieta stretta di Soul. James Brown a colazione, Otis Redding a pranzo, Smokey Robinson a cena e Aretha per gli spuntini fuori pasto. Il Soul ha il ritmo del sesso e anche il ritmo della fabbrica, ha il ritmo dell'operaio, del sesso e della fabbrica. Il soul è musica che il popolo capisce. Certo, è musica semplice, ma ha qualcos'altro, qualcosa di speciale. È onesta, ecco, è sincera. Non è musica stronza. Ha il coraggio di dire che viene tutto dal cuore. Certo, c'è un sacco di musica che dà piacere, ma il soul dà più di questo. Il soul ti porta lontano, ti afferra per le palle e ti tira fuori dalla merda. Ciao a tutti e a tutte e ben trovati a questa nuova puntata di Soul Time, per l'esattezza la quinta puntata della seconda stagione di Soul Time qui su Radio Wombat. Questa puntata, che sarà la prima di due puntate speciali, è dedicata alla Tangerine Records. Tangerine Records, etichetta di proprietà di Ray Charles, ebbene sì, proprio di lui, del famosissimo cantante e musicista Ray Charles, etichetta fondata nel 1962, la cui esperienza si protrarrà fino al 1973. Questa etichetta era attiva durante il periodo in cui Ray Charles era sotto contratto per la ABC Paramount Records, che si occupava tra l'altro anche dell'aspetto logistico di promozione e distribuzione proprio della Tangerine Records. I primi sette pollici, o comunque i primi dischi pubblicati dalla Tangerine Records, avevano quello che è tuttora l'aspetto con il quale si ricorda maggiormente questa etichetta: erano arancioni. Poi con il passare degli anni cambiò l'aspetto estetico dei dischetti, diventando rossi, bianchi e neri. La fondazione di Ray Charles, la Ray Charles Enterprises, tuttora detiene i diritti dei brani incisi in questo periodo. Poi nel 1973 Ray Charles lasciò la ABC, siglando un contratto importantissimo con un'altra etichetta discografica, e la Tangerine cambiò nome e diventò Crossover Records. Direi di iniziare ad ascoltarci un po' di brani di questa bellissima etichetta, in cui sono stati veramente incisi tanti tanti brani spettacolari. Iniziamo con un brano di George Weidel. Questo brano è del 1965. Su etichetta ovviamente Tangerine ascolteremo solo questo. Ci ascoltiamo il lato A, che si intitola Funny Feeling. Lui è George Weidel, qui siete su Radio Wombat. Got the funny, funny feeling. You don't love me no more. And I never, never, never, never had this kind of feeling before. Made up my mind what I'm gonna do. I'm gonna keep right on loving you. Loving you, baby. Keep on talking. Said you're running around. Everybody knows about it. Girl talks all over town. Made up my mind what I'm gonna do. I'm gonna keep right on loving you. Please be true. If you ever, ever need me, honey, please, please call. You see, I love you so much, girl. You're my all in all. Made up my mind what I'm gonna do. I'm gonna keep right on loving you. Loving you, baby. I just can't stop. I said, I just can't stop. Got that funny, funny feeling that you don't love me no more. E lui era George Weidel con il brano Funny Feeling. Proseguiamo con la Tangent Records e ci ascoltiamo Run For Your Life, un brano di Douglas Gibson with The Sweet and The Soap. Quindi Run For Life, Douglas Gibson. Run for your life. Questo era Douglas Gibson, scusate, prima ho sbagliato il nome del gruppo, era per la precisione Douglas Gibson with The Sweet and Soaps, non The Soaps, brano questo del 1966, composto da Lou Courtney, Bateman e Luther Ingram. Quindi proseguiamo ancora con la Tangerine Records qui su Radio Wombat e ci andiamo ad ascoltare questo brano dei Balaquons, probabilmente uno dei brani più famosi mai incisi su questa etichetta. Il brano in questione è Window Shopping on Girls Avenue. Questo brano è per la precisione del 1965. E sul il lato A, sul lato B poi si può ascoltare I Want a Woman, altro grandissimo brano. Io vi propongo per l'appunto il lato A, ci ascoltiamo The Balaquons, Window Shopping on Girls Avenue. If too long your heart's been burning, burning, while each day you're yearning, yearning for the love she never gave you, but used like a charm just to enslave you, and like an old cookie jar, yeah, you sat empty on the shelf, waiting to be filled with the love you couldn't steal, cause she coldly gave it to someone else. She got a go in the shopping on Girls Avenue. Until you find one who's good to you, jump in your car and head where it is. It's the avenue where pretty girls live. Yeah, yeah. If too long you've been looking, looking all over town, ain't nothing cooking, walking around with your head hanging down, no true love to be found, you gotta go in the shopping on Girls Avenue until you find one who's good to you, jump in your car and head where it is. It's the avenue pretty girls live. Shopping on Girls Avenue till you find one who's good to you, jump in your car and head where it is. It's the avenue where pretty girls live. Yeah, yeah. Go in the shopping on Girls Avenue. Go in the shopping on Girls Avenue. The Balaquons qui su Soul Time con Window Shopping on Girls Avenue. Il prossimo pezzo è un pezzo dei The Visitors, gruppo che ha inciso appunto anche per la Tangerine Records, il cui brano probabilmente più conosciuto stampato su questa etichetta è My Love Is Ready and Waiting. Però io questa sera vi voglio proporre il lato B di questo 7 pollici. Anche questo The Visitors è un gruppo molto molto oscuro, tra l'altro come tutti gli autori, i cantanti, i musicisti che ci stiamo ascoltando in questa puntata sono molto oscuri. Ho avuto decisamente difficoltà a trovare un po' di cenni storici riguardo questi artisti. I Visitors era un gruppo formato da James Nelson, Robert Taylor e probabilmente un quinto componente di nome Orlando Bot Colbert. Appunto sono un gruppo oscuro anche questo, come già vi dicevo, in cui la voce principale addirittura tutt'oggi non si sa con precisione se fosse Gody Colbert o Esco Wallace. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo brano su etichetta Tangerine del 1973. Ci ascoltiamo What About Me dei The Visitors. Scusate, gran brano questo dei The Visitors. What About Me. Yeah. E questo brano era dei The Visitors con What About Me, brano del 1970. Quindi rimanendo ovviamente sempre in casa Tangerine Records, passiamo ad un altro brano del 1970, un brano di George Bird, distribuito appunto dalla ABC Records, come vi dicevo in inizio di puntata, è scritto dallo stesso George Bird, mentre è stato arrangiato da Rain Hall e prodotto direttamente da Robert Payton. Quindi ci ascoltiamo questo brano del 1970 di George Bird che si intitola I Am Available. I don't need a girl with cheating on the mind, 'cause she will be loving me all the time. So don't let me anything stand in your way, 'cause I'm looking for a love that won't fade away. But if you think that you can feel my prescription, I'm available. Unbelievable. Mi scuso perché mi rendo conto perfettamente che la qualità di alcuni brani non è propriamente eccelsa, ma appunto sia per quanto riguarda le informazioni su tanti autori che hanno inciso per questa etichetta che le registrazioni proprio di alcuni brani sono arrivate ai giorni nostri in maniera un po' così. Alcuni brani appunto la qualità non è perfetta, non è ottima ed è difficile un pochino anche scovarli. Dicevamo della Tangerine Records, la Tangerine Records appunto ha avuto tantissimi autori e artisti che hanno inciso e lavorato per questa etichetta, sotto etichetta a tutti gli effetti, della ABC Paramount Records, e tanti appunto erano oscuri, ma hanno inciso anche diversi autori molto conosciuti. Ve ne cito giusto qualcuno, tipo gli Ohio Players, che ce l'ho già pronti, ce li ascolteremo tra un po', Percy Mayfield e anche Ike e Tina Turner. Molti di questi brani sono diventate delle hit assolute per quanto riguarda la scena Northern Soul. Infatti i brani che ci stiamo ascoltando sono tanti di questi, dei floor fillers assoluti per quanto riguarda il Northern. Vi ho citato Ike e Tina Turner perché tra tanti tanti nomi oscuri hanno lavorato per questa etichetta anche loro due, questo duo conosciutissimo, famosissimo e veramente molto molto importante in senso assoluto per quanto riguarda la black music, la musica americana e oserei dire anche la musica in generale del Novecento. Ike e Tina Turner incisero questo brano per la Tangerine nel 1966, quindi nei primissimi anni di esistenza di questa etichetta discografica. Il brano che ci ascolteremo è Dust My Broom, inciso su questa, su questo 7 pollici che dall'altro lato presentava anche un altro gran brano che si intitola I Am Hooked. Io vi faccio ascoltare questo bellissimo brano di Ike e Tina Turner del 1966 dal titolo Dust My Broom, Ike and Tina Turner. Ike e Tina Turner con Dust My Broom, gran gran pezzo. Il prossimo brano invece è di Barbara Middleton, anche su questa autrice non sono riuscito a scovare particolari informazioni, addirittura questo disco non è né arancione né nelle tinte che vi dicevo inizio puntata con il nero, il rosso e il bianco, ma è semplicemente bianco e nero e non è dato neanche sapersi in che anno precisamente è stato inciso. È anche un 7 pollici molto molto raro, l'unica cosa che si ha è il numero di catalogo TRC980 che ai più non dirà assolutamente nulla, però vi faccio ascoltare questo bellissimo brano che si intitola I Wonder Why. Lei è Barbara Middleton, questa è la puntata speciale, la prima di due di Soul Time dedicata alla Tangerine Records qui sulle frequenze di Radio Womba. I can't understand why you left me. I Barbara Middleton con I Wonder Why, mentre il prossimo brano che ci ascolteremo è di Sterling Magee, un brano del 1967, sempre sulla nostra Tangerine, ma che per l'occasione ascolteremo anche su etichetta ABC Paramount, perché a un certo punto, non so precisamente in che anno, vi dico la verità, ma l'ABC Paramount ha deciso di distribuirlo anche sulla etichetta principale, appunto sulla ABC. Sterling Magee, qui si ha decisamente qualche informazione in più, è conosciuto anche come Mr. Satan ed ha inciso molti brani, diversi album nel duo Satan and Adam, un duo prettamente blues. Sterling Magee, il cantante del brano che ci ascolteremo, è nato nel 1936 ed è incredibilmente tuttora in attività. Nel 1967 incise questo brano dal titolo I Still Believe in You. Sterling Magee. Oh, I still believe in you, although my heart's in pain. I still believe in you, although you don't explain. What keeps you away from me? Con il prossimo brano invece andiamo ad ascoltarci Jimmy Lewis. James Eddie Lewis, nato nel 37 e scomparso nel 2004, è stato un cantante americano, cantautore, arrangiatore e produttore. Tra l'altro è stato un membro dei Drifters durante gli anni 60 e ha lavorato come autore di canzoni e produttore con Ray Charles ed ha inoltre scritto diversi brani per ZZ Hill, che abbiamo già ascoltato qui a Soul Time. Jimmy Lewis è nato nel Mississippi, ma si trasferì già entro la fine degli anni 50 in California, iniziando subito a incidere diversi brani, tra cui The Girls of Texas e Let Me Know, prodotto da Jimmy Holiday, brani molto molto famosi all'interno della scena Northern. Poi nel 1968 avvenne l'incontro con Ray Charles, quando appunto Ray Charles ascoltò alcuni suoi brani e ne rimase decisamente impressionato, e da qui iniziò un lungo periodo di collaborazione tra i due. Tra l'altro Lewis scrisse ogni singola traccia dell'album di Ray Charles, Doing His Things. Ci ascoltiamo questo brano di Jimmy Lewis che si intitola I Quit, You Win. Up, I quit, you win. I knew it as soon as you walked through the door. I'm not gonna fight it again. I want you too much to resist anymore. Here's my heart, now take it. Promise you won't break it. Come on in and close the door. What are you waiting for? You beg like an alcoholic at a bar, and now you have changed my mind. I'm gonna give you what you've been looking for. Here's the heart, now take it. I knew you'd finally make it. Come on in and close the door. I quit, you win. You made me break my promise. I think you should know, girl. I said I'd never love again. Not after all the pain I went through before. Here's the heart you wanted. You made me do a doggone it. Come on in and close the door. I'm not gonna fight it no more, babe. Not gonna fight it again. I want you too much to resist anymore. Here's the heart you wanted. You made me do a doggone it. You don't have to say no more. What are you waiting for? What are you waiting for? Yeah, baby. Yeah, baby. What are you waiting for? What are you waiting for? I Quit, You Win di Jimmy Lewis. Proseguiamo con la puntata più didascalica probabilmente della seppur breve storia di questa trasmissione. Dopo questo brano del 1969 di Jimmy Lewis passiamo ad un altro brano del 1969. Ci andiamo ad ascoltare Robbie Mitchell and Daryl Patterson con questa canzone che si intitola No One Can Do The Things You Do. Loro sono Robbie Mitchell e Daryl Patterson. It's not raining, the sun is shining bright, and the tears they keep on falling, both day and night. Yes, they do. Since you left me, girl, I tell you that I haven't been the same. And if you'd only come back to me, my whole life might be a ring. Cause girl, I need you. Need you. Can't do without you. Can't do without you. Girl, I want you. Want you by my can't side. Can't do without can't you. Can't do without you. Cause no one in this whole world, no one in without a woman is in a world of his own. Yes, he is. 'Cause a woman makes a man's heart feel so rich and strong. Yes, she does. You'll dare would lie to your people. If the woman you love leave makes you feel like you wanna die. Listen, ooh, girl, I need you. I need you. Can't do without you. Can't do without you, baby. Girl, I want you. Won't you by my can't side? Can't do without you. Can't do without you, girl. 'Cause no one in this whole world, no one. Can't nobody do the things you do. Never find a girl, girl like kissing me. So ain't the way you work it on me, girl. Friends just can't see the way you hold my hand. Robby Mitchell e Darryl Peterson con No One Can Do The Things You Do. Ci rimane il tempo per gli ultimi due brani, come al solito bisogna dare un'occhiata all'orologio per non sforare e andare a coprire altre trasmissioni qui su Radio Wombat. Il penultimo che ci ascoltiamo è un brano sempre della fine degli anni 60, sempre su Tangerine Records, un brano precisamente del 1969, rilasciato per la precisione il 27 gennaio del 1969. Il brano è di Dee Andrews e si intitola Stop, punto esclamativo, Stop, You Are Hurting My Heart. Lui è Dee Andrews. Sarà Dee Andrews con Stop, You Are Hurting My Heart. Nel presentare il brano ho fatto un po' di confusione, ho detto lui, mentre era ovviamente una lei, Dee Andrews, cantante molto attiva nell'area di New York. Quindi è pronto l'ultimo brano, ci ascolteremo George Wythel. Torneremo indietro di qualche anno, andremo nel 1966 per questo brano a cui va con precisione attribuito come autori e artisti George Weidel, Mike Acopoff and his band, che si intitola I'm Gonna Cut You Loose. Io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento per settimana prossima, sempre alle 19 su Radio Wombat, e proseguiremo con una seconda puntata dedicata a questa bellissima, per quanto oscura, etichetta Tangerine Records. E vi ricordo anche che è possibile ascoltare la registrazione di volta in volta della puntata andata in onda il mercoledì, tendenzialmente dal giovedì, venerdì successivo alla andata in onda della puntata. Quindi vi lascio con questo brano che si intitola I'm Gonna Cut You Loose e ci sentiamo settimana prossima sempre qui su Radio Wombat. Check yourself, baby.